Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna. Benvenuti ad Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'Assemblea Legislativa Regionale. In studio Isabella Scandaletti e Francesca Mezzadri. In questa puntata le proposte per affrontare la crisi energetica e il caro bollette, misure antismog e accensione dei caminetti, la situazione degli alloggi per gli studenti fuori sede, le delegazioni della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo riunite a Piacenza. Energia, caro bollette e le possibili soluzioni per gestire la crisi sono stati i principali argomenti di dibattito nell'ultima seduta dell'Assemblea Legislativa. L'assessore allo sviluppo economico Vincenzo Colla ha riferito alcuni dei passaggi programmati dalla Giunta per far fronte alla crisi. Tra questi, la richiesta di una moratoria alle quote di ammortamento dei mutui e poi incentivi al fotovoltaico, bandi per il sostegno delle comunità energetiche e per la riqualificazione energetica degli edifici entro novembre, ma soprattutto il rigassificatore che verrà installato a largo della costa di Ravenna. Un progetto di valenza internazionale, ha spiegato Colla, che prevede un investimento complessivo di circa 1 miliardo di euro. Abbiamo raccolto il commento di Gianni Bessi del Partito Democratico. Sul fronte dell'installazione dei rigassificatori in Italia per l'emergenza della crisi energetica, sia a Piombino che a Ravenna, c'è stata larga partecipazione, la dovuta e dovuto sostegno da parte di tutto il tavolo del lavoro e anche nel dibattito dell'Assemblea mi sembra che ci sia la presa di consapevolezza di questa urgenza. Si agisce su due livelli, sia sul tema dei volumi e quindi dell'approvvigionamento, sul tema dei prezzi, perché chiaramente con più approvvigionamento si contratta meglio. Sentiamo in proposito il capogruppo di Emilia Romagna Coraggiosa, Igor Taruffi. Per quanto riguarda il rigassificatore non possiamo negare che la permanenza di quella struttura per 25 anni rappresenta un elemento per noi problematico. Sappiamo che è un intervento che deve essere fatto, però riteniamo che possano e debbano essere messi in campo strumenti di compensazione, perché comunque quell'intervento non sarà risolutivo a breve termine. Critica la Lega sulla strategia messa in campo dalla Regione. Ecco cosa ci ha detto Stefano Bargi. Si avvale di misure fondamentalmente già previste a livello nazionale, rimane incagliata nelle ipotesi europee, manca quel coraggio di proporre qualcosa di nuovo e di più significativo. In tempi di crisi e con i cambiamenti climatici in atto, anche l'autoproduzione organizzata da fonti rinnovabili può rappresentare una valida risposta, grazie all'attivazione delle cosiddette comunità energetiche. Ne è convinta Silvia Piccinini del Movimento 5 Stelle. Dobbiamo puntare all'indipendenza energetica, che è la vera soluzione nel lungo periodo per non dipendere da altri paesi, quindi passare da un fornitore ad un altro, ma puntando appunto all'autonomia energetica. In questo senso le comunità energetiche sono essenziali. A livello nazionale mancano ancora i decreti attuativi, però la Regione può intervenire nella fase transitoria proprio per aiutare imprese e cittadini in questo periodo di difficoltà ad abbassare il costo delle bollette. Sul tema è intervenuta anche Valentina Cassaddini di Forza Italia, chiedendo chiarezza. La Regione deve fare bene, deve fare in fretta, chiarire chi è il riferimento per le comunità energetiche e chiarire quando si apriranno i bandi e quando questo tavolo di crisi porterà le proprie stanze a Roma. E a proposito di crisi energetica e caro bollette, fa discutere in assemblea il divieto di accendere vecchie stufe e camini a legna nei comuni al di sotto dei 300 metri di altitudine. In attesa della comunicazione in aula sulla nuova pianificazione regionale in materia di qualità dell'aria, il cosiddetto PAIR 2030, in un question time Massimiliano Pompignoli ha chiesto alla giunta regionale una deroga proprio sui caminetti. Sentiamolo. Il problema è che la Regione ha deciso di non scegliere e di non decidere, lasciando ai sindaci ogni tipo di decisione, ovviamente in ordine sparso. Noi abbiamo chiesto una precisa indicazione rispetto a quelle che sono le ordinanze dei sindaci che devono fare, purtroppo questa decisione non è stata presa. Vedremo nel proseguo se la Regione intenderà adottare delle decisioni, diversamente noi insisteremo affinché questa deroga venga concessa. In alcuni comuni come Rimini e Fontanellato i sindaci hanno deciso di derogare alla norma che proibisce di accendere stufe e camini fino alla classe 2 nei territori sotto i 200 metri. Lo fanno notare anche da Fratelli d'Italia, firmando una risoluzione per chiedere alla Regione una sospensione su tutto il territorio del divieto. Ecco cosa ha dichiarato Giancarlo Tagliaferri. Sul tema dell'energia l'Emilia Romagna si nasconde e non prende decisioni. Molti sindaci stanno provvedendo autonomamente nel cercare di ottemperare quelle che sono le esigenze dei cittadini e le richieste dei cittadini. Come Fratelli d'Italia abbiamo fatto tante proposte e offerto la nostra collaborazione e vorremmo che venisse meno quel muro di gomma che finora ha fermato quelle che sono le nostre intenzioni. Il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, ha riferito che la mancanza di un accordo tra le regioni del bacino padano ha impedito di chiedere una deroga al governo. Intanto, il Partito Democratico, con Andrea Costa, anticipa i contenuti di una risoluzione che presenterà in occasione del voto sul nuovo piano dell'area. C'è un problema contingente che è dettato dal rincaro dei costi del metano e che rischia di far esplodere il fenomeno della povertà energetica, cioè le famiglie non avranno sufficienti fondi per poter riscaldare le proprie abitazioni. La Regione Emilia-Romagna rifinanzia un fondo attraverso il quale copre al 100% le spese che le famiglie sosterranno per comprare una stufa a pellet, una pompa di calore o per intervenire sul camino che già hanno. Nel frattempo chiediamo al governo di intervenire su tutto il bacino padano, riconoscendone la peculiarità con un provvedimento che ci aiuti a superare la contingenza. Dal caro bollette al caro affitti. Tra le interrogazioni e risposte immediate in aula, Giulia Pigoni, della lista Bonaccini, ha sollevato il problema degli studenti universitari fuori sede che faticano a trovare alloggi a prezzi abbordabili. L'azienda per lo studio universitario, ha risposto l'assessore alla scuola Paola Salomoni, mette a disposizione oltre 3.700 posti letto, 1.660 dei quali a Bologna. Inoltre, grazie a interventi già ammessi ai cofinanziamenti ministeriali e in fase di realizzazione, in regione ci saranno ulteriori 780 posti letto. Ascoltiamo Pigoni. La regione si sta muovendo stamattina alla risposta dell'assessorato competente per trovare la soluzione per questi ragazzi e fornire nuovi alloggi a prezzi calmierati e speriamo anche nel nuovo progetto di legge a cui stiamo lavorando con l'assessorato di Vincenzo Colla sull'attrattività dei talenti di poter anche offrire una possibilità per i tanti ragazzi che verranno anche a lavorare, non solo a studiare in Emilia-Romagna, perché possano trovare un affitto che possano appunto sostenere durante i loro studi o il loro lavoro. Invece nel suo question time, Marco Massacchi, di Rete Civica, ha sollevato il problema della sede a Lugo per il gruppo di volontari Le Aquile, unità cinofile specializzate nella ricerca di persone sotto le macerie. Sulla sede, che ha caratteristiche particolari per consentire l'addestramento dei cani tra le macerie, pende infatti un'ordinanza di demolizione. Sentiamolo. L'assessore ha detto che c'è la speranza che l'associazione si avvicini all'ente pubblico per trovare una soluzione, mentre io invece credo che debba essere l'ente pubblico ad avvicinarsi all'associazione per trovare la soluzione. Quindi l'approccio è completamente ribaltato rispetto a quello che mi aspettavo e che mi era stato promesso nella mia precedente question time che avevo presentato un anno e mezzo fa. Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi Piacenza ha accolto la prima riunione della consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo in presenza dopo 3 anni di pandemia. L'organo di rappresentanza dell'esperienza migratoria regionale conta una novantina di associazioni in diversi continenti. Marco Fabbri e Valentina Stragliati, rispettivamente presidente e vicepresidente della consulta, hanno accolto le delegazioni giunte da Argentina, Brasile, Cile, Perù, Canada, USA, Spagna, Francia, Germania e Romania. Nella 2 giorni a Piacenza i delegati hanno discusso di come valorizzare il cosiddetto turismo delle radici e hanno avanzato proposte anche per i prossimi bandi regionali per realizzare progetti di promozione dell'identità emiliano-romagnola e per rafforzare il legame con la terra di origine. L'Assemblea legislativa ha salutato Marco Lisei, consigliere di Fratelli d'Italia, eletto in Parlamento. Marta Evangelisti, avvocata di Porretta Terme nel Bolognese ed ex vice sindaca di Granaglione, prende il suo posto. Ecco le sue parole. Mi propongo di portare avanti il lavoro sino ad oggi svolto dal nostro capogruppo uscente Marco Lisei e quello di tutto il gruppo, porterò il mio contributo e lavorerò soprattutto su alcuni temi che reputiamo in questo momento principali, quindi una risposta rispetto al caro energia e poi i nostri temi su cui lavoriamo su tutti i livelli istituzionali, infrastrutture, sanità e lavoro. Siamo al termine della nostra puntata, per rimanere aggiornati sulle attività dell'Assemblea legislativa seguiteci sui profili social e sul sito assemblea.emr.it. Assemblea On Air, il settimanale dell'Emilia Romagna, programma a cura del Servizio Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna. In redazione Margherita Giacchi, Andrea Perini e Isabella Scandaletti. Contributi audio di Davide Landi, Agenzia Dire, direttore Mauro Sarti.